Giovedì 11 ottobre del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza. Questo è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15, come sempre in perfetto orario. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci sms il numero è 342-357-4357. Per avere dettagli sulla scaletta della trasmissione di oggi potete consultare il sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di quest'oggi, giovedì 11 ottobre, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia. Oltre poi al link che rimanda all'ultima puntata e anche a tutto l'archivio delle trasmissioni del 2012. Tommaso D'Elia, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, grazie. Come va? Beh, molto bene, stasera siamo in vista, è l'anteprima di questo ultimo documentario, insomma molto contenti. Allora, stiamo parlando del tuo ultimo lavoro, Sanjay e Sumitra, questo è il titolo, se l'ho pronunciato bene. Questa sera all'Asiatica Film Mediale, che è in pieno svolgimento alla Pelanda, qui a Roma. Tommaso, allora, raccontaci un po' di questa storia. Sì, il film Sanjay e Sumitra, la tigre del tifone, è di nuovo un progetto con la Paneicon e un piccolo finanziamento di sviluppo del progetto Media. L'abbiamo finito da pochissimo, alla fine di luglio. Io sapevo, perché abbiamo partecipato altre volte ad Asiatica Film Mediale, che appunto quest'anno di nuovo era su Roma, e quindi abbiamo portato questo documentario a Italo Spinelli, al quale è piaciuto, e siamo in concorso. Ecco, come dire, unico film italiano in concorso ad Asiatica Film Mediale nella parte documentari. Sanjay e Sumitra è una storia semplice, ovvero marito e moglie, lui ingegnere, lei insegnante, tutte e due di Calcutta, e attraverso loro arriviamo nel delta del Gange, le Sundarban, la parte indiana del delta del Gange, perché grande parte del delta del Gange è in Bangladesh. E lì affrontiamo tantissime storie. Ci racconta in un'intervista la vedova di un uomo mangiato dalla tigre, una donna attaccata da un coccodrillo, Mashveda Devi, che è la più grande scrittrice in lingua bengali indiana, ci racconta delle lotte di Nandigarh contro un hub chimico e una centrale nucleare. Insomma, in questo ecosistema complesso avviene veramente un po' di tutto, e noi lo raccontiamo in circa 80 minuti in questo film. Senti, nasceva tutto naturalmente, nel senso è frutto di un tuo viaggio, oppure è ripartito un po' con l'intenzione di raccontare delle storie lì? No, guarda, per la verità è veramente tutto nasce veramente molto casualmente. In realtà noi eravamo in India la prima volta per un altro film, che è Workers, di cui tu hai ospitato come dire ampiamente, certo, il suo itinere in trasmissione, e a un certo punto eravamo a Calcutta con Sanjay Mitra, che è questo mio grande amico, e che è stato anche il producer indiano, il produttore locale di Workers, e lui insisteva: andiamo nelle Sundarban, devi delle Sundarban. insomma, e quindi mi porta nelle Sundar. Ma là io sono colpitissimo, praticamente passiamo due giorni in questo luogo che è fatto di acqua e di fango, sostanzialmente, e mi ha colpito moltissimo andando a visitare peraltro un piccolo ospedale, Sramajidi Hospital, che è un piccolo ospedale di volontari, che è una delle poche come dire, assistenze mediche in quel luogo. Dopodiché abbiamo finito insomma l'altro documentario, è rientrato in Italia, ne ho parlato ad Ugo Avilardi, che è il presidente della Panego, nonché presidente dell'AMOD, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio. Insomma, questa cosa ci ha intrigato e siamo andati avanti, per cui io poi di nuovo l'anno seguente sono ritornato e ho girato per circa 20 giorni, insomma, diciamo, questa storia nelle Sundarban. Allora, quindi diciamo molto casualmente tutto. Sì, sì, sì. Senti Tommaso, dagli accenni delle storie che facevi prima, allora mi sembra un luogo che incontra due tipi di difficoltà: da una parte c'è una natura selvaggia, ma dall'altra anche l'opera distruttiva dell'uomo tra chimica e nucleare. Ecco, è un po' la situazione di tutta la zona, come anche molte zone del cosiddetto sud del mondo. Sì, io credo di sì, e devo dirti che purtroppo diciamo, questo avviene in una situazione, come dire, di un del governo comunista del Bengala, ormai al potere da 40 anni, quindi c'è proprio una sorta di svendita di un intero territorio, poi abitato fondamentalmente rifugiati della guerra del Bangladesh, adivasi, cioè i tribali indiani, insomma, come dire, tutte minoranze, perché poi è uno dei pochi luoghi dove ancora c'è, ci sono dei pezzetti di terra che ovviamente strappi al mare, al fiume, alla natura, insomma, dove vivere. E quindi è sempre questa riflessione un po'. È giustissima la tua osservazione, tra questa natura che è selvaggia e impressionante e questa fatica dell'uomo di far di fronte. Su tutto poi arrivano le multinazionali che fanno piazza pulita. Infatti raccontiamo anche proprio con il nome persone che intervengono in questo chimico. Comunque la lotta in Handicarm è stata potentissima, con tantissimi morti e feriti, ci sono stati più di 100 morti, feriti a centinaia e centinaia, insomma. E se pensiamo che tutto è stato fatto abbastanza dalle milizie del governo bengalese, devo dire che fa veramente molta impressione. Ecco. Oh, Tommaso, l'India da una parte è una delle cosiddette potenze emergenti, e volevo chiederti come è vissuta questa realtà nelle zone più povere del paese. Sì, è vissuta che loro rimarrebbero tranquillamente con 4 raccolti l'anno, sì. Mandando i figli a scuola, avendo una dignità del lavoro, mentre invece l'insistenza di rapina dei territori e di omologazione dell'economia su tutto il pianeta è un bel confronto, insomma, e tant'è che ci sono luoghi come Nandigarh, ma non solo, che si oppongono e fortemente, quindi sì, insomma, diciamo che siamo in questa scia ormai anche con questo secondo film sull'India, proprio della globalizzazione, di che danni irrimediabili porta e soprattutto quanto toglie di dignità alle popolazioni locali, insomma, senz'altro. Oh, adesso va bene, ricorderemo chiaramente tutti gli estremi della proiezione di oggi. Volevo chiederti da domani invece dove sarà possibile vederlo, se ci sono già delle indicazioni rispetto a eventuali programmazioni televisive o partecipazioni a festival o uscite addirittura in sala, e se c'è un sito internet a disposizione dove avere maggiori dettagli. Ecco, diciamo che sicuramente dunque da domani si può ancora rivedere alla Pelanda alle 22:30, sì. E va in seconda programmazione rispetto a quella di oggi delle 20. E, no, sinceramente non sappiamo ancora nulla, io non sono riuscito neanche a vedere la produzione e riuscire a fare un piano di lavoro. Spero che il film funzioni, oggi vedremo. A me piace molto, vedremo che accadrà oggi e sicuramente insomma vi faremo sapere dove si potrà ancora vedere. Bene, allora Tommaso, come sempre è stato un piacere, ti rimando alle prossime novità. Grazie a voi, grazie a questa bellissima trasmissione. Grazie Tommaso, un abbraccio, a presto. Auguri, in bocca al lupo. Ciao Crepi, ciao. Anche se un ascoltatore tempo fa diceva che spesso noi come augurio pronunciamo l'in bocca al lupo e crepi, ma insomma non è per poco rispetto verso queste creature, ecco. Allora, per comunicare con noi vi ricordo i contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per inviarci sms il numero è 342-357-4357. Allora, mi è arrivata la tua email al volo, io al volo ho composto il numero fisso che ci hai fornito. Gian Giacomo De Stefano, regista del documentario Ranch Girl, uno dei documentari presenti all'edizione 2012 del Via Emilia Doc Fest, di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione. Gian Giacomo, intanto benvenuto a Visionario. Grazie, un saluto anche a te Federico. Allora, sono 18 adesso i lavori che ho visto selezionati per il festival, è tuttora in svolgimento, durerà circa un mese quest'anno l'edizione. Il tuo lavoro di cosa ci parla, Gian Giacomo? Guarda, io ti volevo dire intanto una cosa, che i miei lavori sono due presenti in questo festival, e uno è appunto Round Girl, di cui adesso ti parlerò, e l'altro è A casa non si torna, che è un documentario di cui avete già parlato, ed è un documentario in cui la regia è stata sia mia che di Lara Rongoni, che è la mia socia nonché compagna, ed è un documentario anche questo presente nel festival, quindi diciamo che sono due, sì. Per la verità. Con lei avevamo parlato la scorsa qualche tempo fa di dell'altro documentario, mi ricordo. Sì, mi ricordo. Sì, mi ricordo. Non sapevo di questa connessione, ecco. Lounge Girl parla di una ragazza, Clara, che decide di fare un sito porno, lei lo chiama di porno indipendente, e questo noi l'abbiamo seguita praticamente, questa ragazza, le riprese di incontro sono iniziate nel 2007, alla fine del 2007, e sono durate un paio di anni, con un sacco di problemi a livello produttivo. Comunque, al di là di questo, questa ragazza decide di fare un suo sito porno, e quindi di cercare delle modelle per questo suo sito porno, perché non è lei è l'imprenditrice, e poi in realtà lei cerca delle modelle. Noi l'abbiamo seguita in questa avventura, in questa storia, dove seguiamo da una parte la sua vita personale e dall'altra parte quello che lei, che viene fuori attraverso le sue parole, le sue sensazioni, il mondo a cui lei fa riferimento, che è questo di questi siti porno indipendenti, che poi, ripeto, sono ancora anche un po' passati adesso, insomma sono una cosa che appartiene almeno a 3-4 anni fa come fenomeno, almeno a livello proprio di sensazionalistico, insomma. E noi l'abbiamo seguito in questa avventura. Alcune curiosità, ad esempio, si tratta di una realtà metropolitana, quanti anni ha questa giovane imprenditrice che si è messa in testa questo progetto? Allora, questa ragazza, faccio subito una premessa, le riprese noi le abbiamo terminate nel 2009 e il documentario è uscito nel marzo 2011. Sì. E lei, diciamo che si è realizzato questo sito, come si vedrà nel documentario, però poi a un certo punto l'ha anche abbandonato e chiuso. E anzi, diciamo che da una parte non dico che guarda male quel progetto, almeno lei non lo ammette, però insomma credo sia fortemente critica rispetto al progetto passato, perché lei adesso fa del burlesque, credo anche a un buon livello, eccetera eccetera, e diciamo che quel tipo di mondo lo guarda un attimo diversamente. Io ti devo dire che lei non è stata neanche così contenta del documentario, però questo ovviamente, e quindi diciamo che c'è anche un po' una distanza rispetto al risultato finale, cioè nel senso che noi abbiamo cercato per quanto possibile di essere obiettivi, di raccontare una realtà. Probabilmente Clara lo voleva raccontare una realtà differente, che probabilmente lei sentiva diversa e che noi dal nostro punto di vista non abbiamo visto. Noi abbiamo visto come viene raccontata, che non è negativa in realtà, non è né negativa né positiva. Noi l'abbiamo cercato di raccontare in maniera oggettiva, cioè di raccontare quello che vedevamo, senza dare un giudizio di merito, sì, né morale, tantomeno moralistico, insomma, volevamo fotografare, tanto è vero che ho sempre detto, molti rimangono un po' perplessi sul finale, perché il finale è molto, molto netto, molto che ti fa rimanere un po' così, ma per me il modello era un film di un po' di anni fa che si chiamava Kids, che il finale ti lascia un po' perplesso, però dici, ah, tutto qui. Ecco, la mia opinione era, il mio intento era questo. Mm-hmm. Oh, parlavi prima chiaramente della questione del sito internet pornografico indipendente e poi anche del fenomeno burlesque, ecco, che è l'attività in cui si è poi impegnata successivamente la vostra protagonista. E che realtà, ecco, appunto, avete approcciato? Che dimensione è? Allora, dimensioni per quanto riguarda il discorso dell'aspetto di questi siti porno indipendenti, dove diciamo c'è un po', si dice che debbano essere delle realtà un po' dove il porno non è fine a se stesso, ma magari è molto più vicino alla sensibilità femminile. Devo dirti che da quello che viene fuori dal documentario sono più gli uomini andare dietro a questa cosa, almeno all'epoca ti parlo, perché sono passati almeno 3-4 anni, e di donne, tanto è vero che Clara stessa faceva molta molta molta fatica a trovare delle modelle così ben disposte a posare, c'erano veramente poche, lei ne ha trovate, ma diciamo che erano molto molto poche. Mm-hmm. Poi è chiaro che c'è una differenza tra un fenomeno come, che ne so, Suicide Girl e un sito come quello di Clara, o anche altri simili americani, che hanno un diverso tipo di appeal, nel senso che Suicide Girl, almeno un po' di anni fa, adesso non saprei neanche dirti, avevano un grande appeal, nel senso che comunque molte volevano posare, diciamo, anche per un certo tipo di status, e quello, diciamo, secondo me aveva un buon riscontro, tant'è vero che quel tipo di estetica che poi aveva preso e poi ha anche dato a quella che è la forma moderna di burlesque, ha avuto una visibilità e ha tuttora una visibilità molto molto molto molto grande, cioè, voglio dire, burlesque ne parlano nei programmi della domenica pomeriggio, quindi sì. Però sono due piani diversi, secondo sì, me, da sì, una sì, parte sì. C'è un sottobosco che cerca di dare delle motivazioni a delle cose come la pornografia, dall'altra parte abbiamo un fenomeno che ormai comunque è mainstream. Quello che mi viene da dire sulla pornografia è che comunque, come dice una delle persone intervistate nel documentario, Messina, la pornografia è una, chiamiamola cinematografia, può essere non solo filmica, funzionale, e si fa fatica, secondo me, e anche dal documentario viene fuori, a dargli altre caratteristiche. Ecco. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, cosa, avvicinandovi al fenomeno, ecco, secondo voi cosa ha comportato poi il declino di questo exploit dei siti porno indipendenti? Ma io credo che come qualunque fenomeno in rete debba essere, in rete, cioè il problema di come di avere dei finanziamenti, cioè dei finanziamenti, insomma, di fruttare qualcosa, nel senso che o l'utente paga per vedere un servizio, oppure insomma qualcosa, un filmato, delle foto, oppure si fa molta fatica a tenere in piedi delle cose quando in internet tu di pornografia gratuita ne trovi tantissime, quindi credo che questo sia uno degli aspetti, ecco. Anzi, credo che sia il principale, ma è lo stesso che le stesse difficoltà ce l'ha la pornografia mainstream, le stesse difficoltà ce l'ha anche la televisione stessa, nel senso che sempre di più, la televisione generalista, la rete dà dei contenuti che la televisione non dà, non può dare, che la televisione prova a approcciarsi alla rete, ma per mantenere determinati tipi di strutture bisogna che qualcuno paghi per vederle, ecco, per vedere dei contenuti, e questo ovviamente crea dei problemi. Noi stessi come società stiamo lavorando, cercando di lavorare nell'audiovisivo, non mi ricordo se con Lara ne avevate parlato, ma sulla crossmedialità, su cercare di fare dei prodotti che in rete funzionino e che destino interesse, però è difficile, insomma, e credo per quando uno guarda un prodotto, cerca un prodotto funzionale, fa prima insomma andarlo a trovare altrove anziché pagare, ecco. Senti, un'altra curiosità, prima parlavi della prospettiva femminile, ecco, mi viene anche da pensare, c'è una tutta una linea di pensiero al femminile che rivendica per esempio le sex workers, oppure certo. il burlesque o appunto il porno vissuto in maniera consapevole, un approccio femminile e anche in qualche modo liberatorio, però certo, rispetto certo. A quello che avete visto, secondo te è un piano che ha successo da questo punto di vista? Il successo non ce l'ha, nel senso che comunque ti ripeto, conosco molte persone che fanno questo discorso, oltre ad aver letto dei testi sull'argomento, in difesa proprio ad esempio della pornografia, però in mia pratica faccio fatica a trovare delle cose interessanti, cioè delle risposte interessanti e delle visioni convincenti fino in fondo, ripeto, non per moralismo, ma proprio perché rimangono molto circoscritte a un'area e non hanno quella diffusione che magari potrebbero meritare. Io ti ripeto, quello che ho visto è stato sicuramente nella presenza del nostro documentario una sincerità, però da parte sua, però anche una voglia di esibirsi un po' anche fine a se stessa, cioè di voler comunque apparire. Sì. E questo ovviamente è nel documentario. Poi io ripeto, noi abbiamo presentato il documentario anche in delle realtà molto vicine a chi rivendica appunto il ruolo delle sex workers, tutte queste cose qui, come per esempio la libreria di Betty Books a Bologna, dove c'è state veramente delle belle discussioni. Io una risposta definitiva non te la so dare, e neanche il documentario la dà, perché sì. Il documentario secondo me si affaccia in un microcosmo relativo di un mondo, comunque ne racconta solamente una piccola porzione, e anche in maniera non dico contraddittoria, ma comunque con tante differenze, perché per esempio c'è Banana, che è una fotografa di Suicide Girl, che veramente mi piace molto come persona, perché lei comunque sottolinea il fatto che, ed è secondo me uno dei messaggi importanti di questo documentario, che uno può fare quello che vuole, però deve esserne consapevole. Sì. E lei è una fotografa, lavora anche nel mondo dell'art. Lei dice, perché io gli avevo posto la domanda, perché certi siti come Suicide Girl, se tu posi per loro, poi a un certo punto non puoi più tornare indietro, non puoi ritirare le tue foto saranno per sempre visibili. E lei dice giustamente, se lo vuoi fare lo fai e fai bene, però non è possibile che magari ci siano delle ragazze che per gioco postano delle loro foto nude o in altre situazioni e poi si aspettano che quello sia un gioco che finisce lì. Purtroppo non è così e ne devono essere consapevoli. E Banana dice questo, e secondo me questo è uno dei messaggi del documentario. Sì. Senti Gian Giacomo, allora ricordiamolo, Raunch Girl presente al Via Emilia Doc Fest, che come spiegavamo la scorsa settimana è un festival del documentario online. Per un mese 18 lavori saranno visibili e votabili, per cui lo potete vedere tranquillamente. A questo punto io ti auguro un in bocca al lupo, un abbraccio. Grazie. E a risentirci presto. Anche a te, grazie, un saluto e grazie a te e agli spettatori. Sì, gli spettatori sono quelli della radio. Ascoltatori. Ascoltatori. Ascoltatori. Grazie mille, un saluto. A presto, ciao Gian Giacomo. Ciao, ciao. Gian Giacomo De Stefano, regista del documentario Ranch Girl. Cristina Oddone, regista del documentario Loro Dentro, anche questo presente online al Via Emilia Doc Fest. Cristina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci, nonostante il tuo raffreddore, la storia di questo lavoro. Loro Dentro, di chi si parla? Allora, Loro Dentro nasce da una ricerca dell'Università di Genova, del Laboratorio di Sociologia Visuale, Dipartimento di Sociologia, sul carcere di Marassi. Dopo diverse ricerche in carceri qua in Liguria, abbiamo voluto provare a fare ricerca dentro il carcere di Marassi, lavorando sui giovani, cioè su qual è l'esperienza di giovani italiani e stranieri, tossicodipendenti e non tossicodipendenti, del carcere, che senso ha nelle loro vite. E per fare questo abbiamo deciso di proporre alla direzione del carcere un laboratorio video con i detenuti. Quindi, diciamo, un'idea un po' azzardata, un po' inconsueta, perché di solito qualsiasi attività è abbastanza difficile da proporre all'amministrazione, difficile da avere l'approvazione, però siamo riusciti comunque a stare per quasi 5 mesi in carcere per 4 ore alla settimana con un gruppo di giovani tra i 20 e i 30 anni. Quindi diciamo che il documentario è un po' il risultato di questa esperienza, è una storia che noi raccontiamo, questo incontro, no? Tra un gruppo di giovani ricercatori e un gruppo di giovani detenuti, e chiedendo loro di raccontare la loro quotidianità, no? Com'è la vita dentro, quali sono le loro preoccupazioni, le loro priorità, che cosa, al di là delle retoriche poi che circolano sui media, sulla televisione, sull'immagine un po' stereotipata che abbiamo degli istituti penitenziari in Italia, sapere come se la vive, come la vivono dei giovani e come sono in grado di mettere in moto delle pratiche anche di resistenza nella quotidianità. Cristina, dicevi prima giovani tra i 20 e i 30 anni, quanti erano i partecipanti? 10 ragazzi, ecco. Che mosaico è venuto fuori rispetto al quotidiano dietro le sbarre? Beh, in qualche modo la scelta dei ragazzi è stata quasi del tutto casuale, nel senso che l'hanno scelta poi gli educatori, però allo stesso modo il campione era rappresentativo della popolazione penitenziaria in Italia, per cui quasi la metà di loro erano stranieri, quasi la metà erano tossicodipendenti, in qualche modo è speculare rispetto ai dati del carcere in Italia, no? Dove il 35% sono stranieri e il 30% hanno problemi con le sostanze. Quindi questo è stato significativo. E poi dai loro racconti emerge la precarietà della vita dentro, dove comunque non è facile avere un controllo sulla propria vita, perché si è spostati di cella, si è spostati di sezione, si è trasferiti in un altro carcere quasi a loro insaputa, per cui con tutte le conseguenze sui rapporti con i familiari, con la cura, con l'ideale riabilitativo della pena, no? Quindi la scuola, i progetti di formazione al lavoro, eccetera. Poi sicuramente è venuto fuori un aspetto molto delicato, è stata la questione della cura, no? Cioè la mancanza di cura in senso lato, e poi soprattutto dal punto di vista medico e psicologico, no? Nel nostro gruppo di lavoro c'era anche un etnopsichiatra che ha curato molto questo aspetto di relazione, di dialogo sull'autolesionismo. Sono emersi moltissimi casi di autolesionismo e episodi anche abbastanza violenti. Sicuramente un dato positivo invece della ricerca è stato vedere che le relazioni tra di loro sono spesso ciò che li salva, no? Ciò che i legami di solidarietà, i legami d'affetto fanno sì che riescano a ricostruire comunque dei nuclei quasi familiari, affettivi dentro, nonostante la privazione. Oh, Cristina, che pene avevano davanti a loro e da quali realtà non solo familiari ma anche sociali provengono? Allora, noi abbiamo scelto di lavorare con detenuti comuni, quindi diciamo, ragazzi che sono dentro soprattutto per reati di spaccio, rapina, rissa, cose di questo tipo, quindi le pene erano piuttosto, non erano molto significative, cioè potevano andare dai 2 ai 4 anni, non erano certo dei criminali, diversamente per esempio dal lavoro che hanno fatto i Taviani con i detenuti in massima sicurezza, erano proprio detenuti comuni, appunto venivano, ed è interessante rilevare che vengono tutti dalla stessa estrazione sociale in qualche modo, cioè sottoproletariato urbano nazionale e stranieri, no? Quindi in qualche modo si può anche dedurre che il carcere punisce in gran parte chi proviene da settori meno privilegiati, no? Certo, della società, certo. Chi si incontra in qualche modo criminalizzato per il suo status economico, sociale, giuridico, e quindi insomma questo è stato un po' quello che abbiamo potuto osservare. Molti ragazzi che venivano qua a Genovesi venivano dai quartieri più marginali della città, i quartieri popolari. E questo non per criminalizzare i quartieri, ma per riflettere sulle cause, certo, sociali di quella chiamata devianza, no? Sì, sì, sì, sì. Senti, oltre ai racconti della loro quotidianità, c'è anche nel vostro lavoro una riflessione sul dopo, sulle prospettive future? Sì, diciamo, il documentario si conclude un po' su una loro riflessione, soprattutto sul dopo, no? Proprio perché ci interessava anche a fini terapeutici, proprio perché questo era anche l'obiettivo del laboratorio, che loro riflettessero anche sul senso di questa esperienza in carcere nella loro biografia, no? Quindi che cosa, da dove venivano, che cos'erano lì e dove, quali prospettive, quali immaginazioni, quali immaginari potevano avere sul dopo. E sono venute fuori delle cose anche abbastanza scontate, se vogliamo, nel senso che un immaginario di un futuro, di una famiglia, di un lavoro, di una quotidianità tranquilla, cioè comunque i sogni di questi ragazzi sono il sogno di una normalità abbastanza banale, no? Però che in un momento come questo è anche piuttosto inarrivabile. E sicuramente per molti il ricongiungimento con la famiglia di origine, per gli stranieri, e la prospettiva di costruire una famiglia propria, quindi la priorità degli affetti in, sì, qualche modo. Sì, sì, sì. Senti, considerato anche che questa emittente si occupa abitualmente di carcere, volevo chiederti, mm-hmm, invece cosa lamentano rispetto al loro stato di detenzione? Beh, sicuramente la mancanza di cura, la disattenzione, l'essere trattati come cose, non come persone, mm-hmm, e la privazione in questo senso, cioè un carcerato appunto deve contare sulle proprie qualità, sulle proprie capacità di reagire al sistema, perché senza quelle capacità, senza i legami con gli altri detenuti, è anche difficile andare avanti giorno dopo giorno, dal fare la spesa quotidianamente al preparare i pasti, al sopravvivere all'ora d'aria, nel senso che comunque lo Stato è assente in moltissime, cioè quasi nella totalità delle situazioni, nonostante ci siano anche qua nel carcere di Genova l'ospedale, le cure dentistiche, alcune attività, però considerata la sovrappopolazione, il sovrappopolamento delle carceri italiane e la scarsità di risorse, ovviamente lo Stato non è presente, non è in grado di garantire quello che considera la riabilitazione, la rieducazione dei detenuti e allo stesso tempo di garantire la loro incolumità, per cui molto spesso, cioè come sappiamo, i dati sui suicidi in carcere sono altissimi. dati di autolesionismo che spesso non vengono neanche registrati, sono altrettanto gravi. Oh, Cristina, chiaramente parlavi del vostro laboratorio come di un esperimento positivo. Ecco, in questo panorama comunque ci sono delle eccezioni di buon lavoro e anche di esperimenti che possono essere magari riproponibili, che rappresentano... Sicuramente. Sì, sicuramente ci sono molte le esperienze in Italia che comunque, soprattutto grazie ad associazioni, a enti di volontariato, alla buona volontà anche di operatori, perché non si può nemmeno generalizzare, no? Abbiamo incontrato nel nostro percorso anche molti operatori motivati che veramente, al di là del loro stipendio, che come sappiamo non è sufficiente, aggiungono uno sforzo volontario per migliorare la situazione, le condizioni dei detenuti, e poi associazioni come Ristretti Orizzonti. Nello stesso carcere di Marassi c'è una rivista scritta ai detenuti, un laboratorio di scrittura che produce questa rivista, che porta fuori dal carcere le storie dei ragazzi, dei detenuti, e tutte queste iniziative sono fondamentali, cioè comunque sono in grado di cambiare la vita delle persone e far sì che abbiano una speranza, un contatto quando escono, un ponte per ricollegarsi con la società una volta fuori. Allora, ricordiamo il documentario Loro Dentro, presente online al Via Emilia Doc Fest, dove si può vedere, si può anche votare. Cristina, c'è anche un vostro sito internet specifico sul documentario? Sì, c'è un sito internet del Laboratorio di Sociologia Visuale, che è questo spazio di ricerca sociale e ricerca cinematografica, filmica, indagine insomma del reale, e www.laboratoriosociologiavisuale.it. Allora, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e risentirci presto. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao Cristina. Buon lavoro. Ciao. Cristina Oddone, regista del documentario Loro Dentro, presente al Via Emilia Doc Fest. Ecco, noi Chiara Tringali di Cineama, organizzatrice della rassegna Revolver qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 5 ottobre, quindi è già cominciata, andrà avanti fino al 7 dicembre. Chiara, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto vorrei parlare appunto di cineama.it, che è una piattaforma online che si occupa di cinema a 360 gradi. E in questo periodo ci stiamo concentrando soprattutto sulla distribuzione di tutte quelle pellicole o quei film indipendenti che altrimenti non troverebbero una circuitazione nelle sale e quindi non sarebbero accessibili al grande pubblico. Certo. Proprio per questo, tra le nostre programmazioni, abbiamo realizzato la rassegna Revolver, che mette in contatto due grandi realtà che interessano soprattutto il pubblico giovane e non giovane e meno giovane, che sono il cinema e la musica. La rassegna è partita il 5 ottobre con Beatles, The Magical Mystery Tour, un film visionario che è stato appunto realizzato proprio dai Beatles e che per la prima volta in una versione restaurata viene proposto sul grande schermo. I fan insomma l'hanno atteso per anni e lo hanno particolarmente apprezzato durante questa proiezione. Il Nuovo Cinema Aquila, che continuerà il 17 ottobre con i Led Zeppelin, il loro famoso concerto tenutosi a Londra il 10 dicembre del 2007, dedicato al loro caro amico fondatore dell'Atlantic Record. Questa ricordiamo che è un'anteprima nazionale, infatti il film si troverà in esclusiva in sala giorno 17 ottobre, sia all'Aquila che in altre sale d'Italia, per gentile concessione della Nexo Digital e della Warner Music Italy. Senti Chiara, che cadenza ha il festival rispetto alla programmazione del film? Allora, le date del festival sono il 17 ottobre con Led Zeppelin Celebration Day, il 2 novembre con Once, un film indipendente a basso budget, girato con un taglio quasi documentaristico, con camera a mano, il 23 novembre con una selezione offerta dal Road to Ruins Film Festival, e il 7 dicembre l'ultima data con il George Harrison Living a Material World, un documentario ricco ed elegante affidato a Martin Scorsese. Senti, per la scelta di questi titoli su cosa avete puntato? Diciamo su, come ti dicevo prima, su quei film che hanno avuto scarsa visibilità o quasi nulla nelle sale, quindi diciamo che uno degli unici modi per portare questi film in sala è quello di trovare delle sale disponibili ovviamente a farlo. Per questo ringrazio il Nuovo Cinema Aquila e Fabio Meloni, sempre molto interessato al recupero e alla visione di questi materiali inediti che altrimenti rimarrebbero quasi dimenticati o poco accessibili ai più. Una selezione che viene fatta di volta in volta in base a criteri sempre diversi. In questo caso il criterio fondamentale era che si trattasse di cinema e musica e che si trattasse di prodotti di qualità, ovviamente. Sì. Le rassegne sono spesso tematiche e si basano sempre su, insomma, la nostra scelta si basa sempre su criteri diversi a seconda dei casi e delle esigenze. Chiara, com'è andato il primo appuntamento con i Beatles? Il primo appuntamento con i Beatles è andato molto bene, in quanto ogni serata è preceduta anche da un aperitivo musicale che si tiene nel foyer del cinema. C'è stato anche Luciano Ceri, che è un esperto musicista e giornalista esperto della Beat Generation, che ha introdotto il film. Ovviamente vedere in sala un film del genere è stato abbastanza un'emozione, insomma, forte, soprattutto perché immaginiamo che un film dei Beatles abbia delle immagini alquanto visionarie, poi girato da loro in quegli anni. Certo. È stato davvero emozionante, anche il pubblico ha reagito benissimo alla rassegna, è stato incuriosito e speriamo, insomma, che continuerà a presentarsi. Proprio a proposito della prossima data, che è il 17, come ricordavi prima, cosa è previsto oltre alla proiezione? Avremo una proiezione, un aperitivo musicale, con una selezione offerta probabilmente anche in questo caso da Rod Bruin, cioè siamo in via di definire ancora la selezione musicale, che comunque sarà legata all'universo delle Zeppelin. Benissimo, il programma credo sia consultabile sul sito internet del Nuovo Cinema Aquila, ma avete anche un vostro sito? Sì, noi abbiamo il nostro sito che appunto è cineama.it, come dicevo è oltre ad essere prima di tutto una community per appassionati ed esperti di cinema, quindi insomma se siete interessati gli ascoltatori potranno registrarsi per un proprio profilo personale, siamo presenti su tutti i social, quindi Facebook, Twitter eccetera, semplicemente cercandoci con il nome Cineama. Ci troveranno e lì il sito è costantemente aggiornato con tutte le nostre iniziative. Bene Chiara, allora un risentirci alle prossime novità e un in bocca al lupo. Grazie mille, grazie il lupo, vi aspettiamo al Nuovo Cinema Aquila il 17 ottobre con i Led Zeppelin. Ciao e a presto, ciao Chiara. Ciao. Chiara Tringali di Cineama, organizzatrice della rassegna Revolver al Nuovo Cinema Aquila, cominciata il 7 ottobre, andrà avanti fino al 7 dicembre, dicevamo prima il prossimo appuntamento con i Led Zeppelin è il 17 ottobre. Proseguiamo! E i contatti con noi per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica visionari@landarossa.info, mentre per inviarci degli sms il numero è 342-357-4357. Allora, e se prima parlavamo di Revolver, parliamo adesso di un'altra manifestazione che si svolge in concomitanza con quella Road to Ruins Film Festival, sempre al Nuovo Cinema Aquila, qui a Roma l'11, quindi comincia oggi fino al 14 ottobre, per tutto questo fine settimana. Ne parliamo con Anthony Ettore, che è il co-direttore. Anthony, ben ritrovato. Ciao, visto che ogni tanto noi ci risentiamo. Ogni tanto ci rincrociamo, e questo fa sempre molto piacere. Bene. Sì, quindi il Road to Ruins, che poi è anche, insomma, abbiamo avuto modo di linkarci anche con le iniziative di Cineama, ci sarà una serata, insomma, in cui riproporremo un estratto, come dire, di questa edizione del festival. A che numero siamo di edizione? Siamo a una seconda edizione, della versione, come dire, cinematografica, perché comunque Road to Ruins ha una storia di 12 edizioni di un festival puramente musicale che era fondato da Pierpaolo De Iulis e curatore, insomma, di tutte e 12 le edizioni musicali. Si trattava di un festival esclusivamente punk, che poi per una sfida è diventato un festival cinematografico. Come esperimento, una prima edizione l'abbiamo avuto l'anno scorso presso il Cinema Farnese, in cui abbiamo sondato un po' su quello che sono state le produzioni musicali prettamente italiane degli ultimi anni. E quest'anno la seconda edizione del Road to Ruins Film Festival, quindi ha deciso invece di aprirsi verso una dimensione internazionale, sfidando un microscopico budget che comunque ci ha permesso di portare al termine un programma di cui siamo molto soddisfatti. Anthony, la matrice di partenza è sempre punk? La matrice di partenza potremmo dire che è punk nello spirito, nel senso che il punk è fondato su Do It Yourself, e Do It Yourself è il Road to Ruins Film Festival, siamo puramente volontari, siamo dei puri appassionati di cinema e musica, e vorremmo fosse qualcos'altro, purtroppo le finanze non ce lo permettono, abbiamo avuto l'apertura da parte del Cinemacchina ad accogliere questo evento, e la cosa ci ha aiutato più rispetto all'anno scorso, e abbiamo potuto investire un minimo in programmazione. Insomma, questo è un discorso che distrae forse un po' troppo da quelli che poi sono i contenuti che magari mi vale più la pena segnalare. Noi cominciamo oggi la programmazione, sì. Ci terrei a dire che insomma abbiamo l'evento di punta, gli eventi di punta apriamo con due anteprime, perché le proiezioni si hanno sia nella sala principale che nella sala 3 del Cinemacchina, alcuni eventi si terranno nel foyer invece, perché abbiamo integrato sia presentazioni di libri che delle session acustiche che ci terremo a segnalare. Ecco, proprio per questo, Anthony, visto che si tratta di una 4 giorni, volevo chiederti com'è strutturata la giornata del festival. Allora, la programmazione odierna e anche quella di domani, cioè quella di giovedì e venerdì, parte alle 20. Per quanto riguarda gli eventi di sala, gli eventi invece nel foyer cominciano alle 18 da domani, e la programmazione di sabato e domenica partirà dalle 18 in entrambe le sale, quindi insomma abbiamo chi avrà modo di passare anche dal nuovo Cineaquila in anticipo potrà prendere i programmi, può andare sul nostro sito che è www.roadtoruins.it, dove tutto è dettagliatamente indicato, dove c'è la possibilità di scaricare in PDF il catalogo del festival che abbiamo realizzato in digitale, quindi poter avere ulteriori informazioni. Qui stasera abbiamo due film di apertura. Uno è uno dei nostri motivi di orgoglio di apertura del festival, che è un film tedesco, un'opera prima di Martin Persiel, di Saint California, che presentiamo questa sera alle ore 22. Presenza di uno dei produttori del film, Michael Schäbel. Il film l'abbiamo avuto anche grazie alla collaborazione del Goethe Institute. Si tratta di un film tedesco che racconta le memorie di un gruppo di skaters della DDR, con la caratteristica di essere fortemente un film rock, perché questo già vogliamo proprio appunto far capire che anche il registro con cui si presenta il Road to Ruins Film Festival è quello di presentare film che abbiano un linguaggio rock, ma che non necessariamente parlino di rock. Sì. E quindi insomma, sia per quanto riguarda la documentaristica che film di finzione, ci sono anche film non documentari in programma. Nell'altra sala invece abbiamo un film che si ricollega un po' ad una sezione che l'anno scorso avevamo, chiamata Borderline, perché volevamo sconfinare oltre le barriere del rock, oltre i confini del rock, ed è un bellissimo film brasiliano intitolato The Samba Within Me, che documenta dei giorni di attesa in una favela brasiliana, giorni di attesa che precedono il carnevale, e comunque l'oggetto è appunto la musica tradotta attraverso, filtrata attraverso il sentimento popolare e tutto il resto, cioè, un documentario bellissimo anche questo. Contemporaneamente, giusto per far capire le possibilità che offre, abbiamo degli eventi gratuiti nel foyer, alle ore 22 abbiamo uno spazio acustico, e grazie alla collaborazione del fenomeno Borgata Boredom, che forse molti appassionati di underground conosceranno, si tratta della scena sperimentale di Roma Est, di cui se ne è tanto parlato in passato, avremo degli acustici, delle acustiche performance live, e sì, questa sera suonerà Grip Casino e Calcutta. questo dalle 22 in poi, questo potrà accedere chiunque in quello spazio nell'attesa di vedere un film o comunque di vivere. Vogliamo, appunto, abbiamo cercato di dare vita a ogni spazio che il cinema Aquila ci offre. Anthony, visto che prima parlavi del fatto che il Road to Ruins ha 12 anni di esperienza come fenomeno musicale, strettamente musicale, volevo chiederti quali sono le ragioni del passaggio anche al cinema? Questo lo si dovrebbe chiedere al fondatore, al nostro presidente, appunto, per Paolo De Iuris, che di Punto in Bianco, io in realtà lui, occupandosi anche di documentaristica musicale, lui ha realizzato un bellissimo documentario sulla mia vita italiana intitolato Crollo Nervoso, aveva collaborato con Mamma Dammi la Benza di Angelo Rasselli, con testi di Luca Frazzi sul punk italiano, comunque non si può definire uno storico del rock italiano, ma di quello più sentito, quello più vero, quello più vivo, non parlo del mainstream più commerciale. Lui ha, avendo anche, come dire, la comune passione per le immagini, è comunque anche un forte sentimento di mettere su, un po' come incidere. Lui si occupa soprattutto di ristampe di dischi classici del punk rock, per esempio americano, quindi riportare, cioè lui ha documentato per esempio il rock italiano, questo significava, come dire, lasciare ai posteri qualcosa che potesse essere ricordato e archiviato e riconsultato. Questa è l'importanza del cinema, che poi a volte purtroppo ha il limite dei festival, ma è bene che vada oltre, nel senso che secondo me dopo un certo punto è importante che ci sia una diffusione pubblica di tutto ciò che è stato prodotto. È chiaro, la fase commerciale è necessaria, ma io credo che la motivazione principale sia quella di preservare anche una memoria visiva di quella che è la storia della musica, insomma, penso che il punto di partenza sia questo. Poi la passione per la sperimentazione, per la documentazione più variopinta che esiste, soprattutto all'estero, riguardo il cinema rock, insomma, portare questo nei nostri confini, insomma, era anche importante, non solo per dare occasione di vedere film inediti, ma anche magari per stimolare sia produttori che cineasti indipendenti. Sì. Io non so se ho un altro po' di tempo per dirci, giusto per segnalare qualche altro evento, non tutti, perché chiaramente sì, poi, sono tanti. Allora, dacci magari qualche indicazione su cose a cui tieni particolarmente e poi vorrei chiedendoti un paio di cose. Ok, allora domani sera alle 22 abbiamo una performance live anche qui siamo molto, di cui andiamo molto orgogliosi, verrà Frick Cantoni accompagnato da Alessandra Mossacci, che in una performance live ironi contemporaneo metterà in scena per circa un'ora questa sperimentazione live di musica contemporanea e poesia demenziale. Questo sarà il pretesto per ripresentare un film che l'anno scorso è stato presentato in anteprima al Festival di Torino, che è Freak Beat di Luca Pastore, che è una sorta di mockumentary in cui il protagonista Frick Cantoni va alla ricerca di un fantomatico nastro che documenterebbe una performance fra gli Equipe 84 e Jimi Hendrix nel Piper degli anni 60. Questa è una cosa un lavoro molto bello, molto divertente, che ci tenevamo a riproporre. Altri eventi da segnalare, insomma, abbiamo uno spazio sabato dedicato al punk islamico, il cosiddetto Islam Punk, che ci portava, che ci risuona nelle orecchie con i CCP. In realtà è un fenomeno che negli Stati Uniti prende sempre più piede già da diversi anni e viene raccontato in due film, un film documentario di cui abbiamo anche il regista Omar Majed, che viene presentato sabato alle ore 20, e a seguire un film invece di finzione alle 22, Tawa Course di Ead Zara, che è un altro film che racconta la stessa scena, lo stesso fenomeno, però attraverso la finzione, ed è anche questo un film che trovo straordinario. Grandi eventi sabato, abbiamo in chiusura due anteprime, una del canadese Spooky Ruben, anche il nostro ospite, ci tengo a dire che gli ospiti sono venuti a loro spese, perché sono talmente innamorati del progetto del festival, che ho dagli Stati Uniti o dal Canada, ho detto ok, fateci dormire, però l'aereo ce lo paghiamo noi. Questo, insomma, per noi è stato anche motivo di energia ulteriore da investire nel festival. È un'anteprima italiana, che è Angels of Rock and Roll di Massimo Monacelli, che si avrà nello spazio Midnight Movie. Noi venerdì e sabato facciamo delle proiezioni oltre la mezzanotte, riproporremo Viva Zappatore il venerdì, cioè domani, insomma, che è un film che è di punta della prima edizione, che purtroppo non ha avuto alcuna distribuzione in Italia. E poi, sempre per rimanere sui Sommi Capi, abbiamo un grande evento che domenica, che è un tributo al Folk Studio, con una tavola rotonda curata da Tiziano Tarli, in cui interverranno diversi ospiti, da Ernesto Bassignano, Dario Salvatori, per dire, e proporremo dei materiali che ci sono stati concessi da Rete, che materiali inediti di un documentario, insomma, passato solo in Rai negli anni Ottanta, che ricorda, insomma, spazio storico, questo laboratorio storico romano, in cui sono nati molti cantautori, anche divenuti famosi, come appunto per esempio Venditti o De Gregori e altri. E niente, c'è spazio anche per la sperimentazione, per il videoclip. Abbiamo Pierpaolo De Sanctis che ci cura uno spazio dedicato al videoclip italiano, al videoclip sperimentale italiano, e un focus su uno sperimentalista visivo italiano, che è Virgilio Villoresi, che sarà anche nostro ospite. Quindi, insomma, gli stimoli sono variopinti. Io tendo a sembrare un po' frenetico, un po' caotico, perché i contenuti sono così tanti. Sì. Tra l'altro, il De Santis ogni tanto è nostro ospite, quindi. Assolutamente, sì, noi abbiamo dei collaboratori di cui siamo pienamente orgogliosi, perché sono anche loro professionisti appassionati che si sono, come dire, votati al Rotruense per concederci il loro lavoro. Insomma, ci tengo a dirlo, come dire, con uno sforzo non indifferente, nonostante appunto le difficoltà economiche. Allora, siamo riusciti a chiuderlo. Ti dicevo, Anthony, in chiusura, tanto quante sono le opere che presenterete, e poi, visto che prima parlavi di opere non strettamente musicali, ma che comunque hanno un linguaggio rock, ecco, secondo te qual è lo spirito, l'essenza rock? Domanda complessa. Allora, le opere in generale saranno, in totale sono circa una trentina, adesso non ho fatto un conteggio, insomma, sì. Perché ci sono opere che sono lungometraggi, altre sono mediometraggi, poi ci sono tutti i vari videoclip e corti sperimentali che completano il tutto. E lo spirito rock, ognuno può avere un'idea molto soggettiva, quello personale è quello di un cinema che sia immediato, che sia... diretto, spontaneo, come dire, frontale, che arriva all'improvviso, che stupisca, che sorprenda, che può essere quindi sia un cinema in cui si riconoscono dei cliché che gratificano, perché spesso alcuni tipi di cliché li ricerchiamo nel cinema, anche gli stessi appassionati, e dall'altra parte anche l'imprevedibilità di molti linguaggi, come di molti fenomeni musicali che vengono poi rappresentati. Insomma, questa è la mia idea di cinema rock, ma, come dire, è qualcosa che è aperta, è molto come interpretazione, non vi è una definizione netta, come non do una definizione netta al concetto di rockumentary come quella di documentario. Il documentario può essere anche un film di finzione dal mio punto di vista, e viceversa. Insomma, ogni film racconta qualcosa che in un certo modo è reale, puramente inventato o reinventato, in quel momento è reale. Bene. Il cinema va vissuto in questo modo, secondo me. Allora, ricordiamo gli appuntamenti con il Road to Ruins Film Festival, il nuovo Cinema Aquila, da oggi 11 fino al 14 ottobre. Hai anche dato le indicazioni per quanto riguarda il sito internet. Le ribadisco brevemente: www.roadtoruins.it, dove troverete tutti i dettagli. Un abbraccio e a presto. Ciao, Anthony. Grazie, Federico. Grazie. Ciao. Siamo in collegamento con Mario Lorini, presidente della FICE, per un bilancio degli incontri del cinema d'essai a Mantova dall'8 all'11 ottobre, quindi oggi ultima giornata. Benvenuto Mario a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera, grazie a voi di averci chiamato. Sì, siamo qui vicini alla conclusione di questa bella manifestazione, posso dire, perché 4 edizioni a Mantova, la 12ª edizione degli incontri professionali del cinema d'essai, la conferma di una scelta giusta in una città che ci ha ospitato con sensibilità e competenza, essendo una città molto attaccata e molto esperta in materia di manifestazioni festivaliere di stampo culturale. Abbiamo avuto un grosso incremento del numero degli accreditati, oltre 500 da tutta Italia, inoltre gli ospiti e anche tanti professionisti del cinema d'autore. Abbiamo allargato in modo completo la città offrendo 12 anteprime, tutte molto seguite, aperte proprio al pubblico, e quest'anno abbiamo consolidato anche il rapporto con le scuole, infatti ci sono oltre 600 studenti che durante questi giorni vedranno i film che in questi giorni riempono le sale del Teatro Ariston. E poi momenti professionali dove ci siamo scambiati come di consueto le nostre idee, ci siamo guardati in faccia in un momento che comunque resta complesso per il cinema, ma che come un po' in tutte le cose della nostra vita può passare da momenti di leggera depressione a momenti di speranza e di ripresa. Ecco, proprio a questo proposito, Mario, a fronte, la domanda cardine chiaramente è che a fronte di un cinema in cui c'è stato un crollo degli spettatori già da questa estate, chiudono le monosale, c'è un passaggio al digitale, volevo chiederti, ecco, lo stato del cinema sé ad oggi. Allora, il cinema de sé è al centro di tutta questa complessa vicenda, perché comunque noi siamo sale a tutti gli effetti, abbiamo questa specificità un po' ibrida, nel senso che va un po' distinta partendo dalle grandi città per arrivare alla provincia. Dunque, la crisi del mercato è stata caratterizzata da questa scelta sbagliata, a nostro modo, della distribuzione di non uscire durante il periodo estivo, no? Dopo anni di tentativi, quest'anno c'è stato veramente il buio, sia sul fronte del cinema commerciale, l'abbiamo visto anche con le polemiche che hanno lasciato sul campo appunto solamente due blockbuster, diciamo, in tutto il periodo della bella stagione, e il niente sul DSE, quando noi invece dicevamo che nel mese di maggio appunto già i film provenienti da Cannes, citiamo i molto rammentati film di Bertolucci e di Garrone, potevano uscire. Ci siamo ritrovati quindi con la sensazione negativa di una ripresa lenta, perché quando il pubblico, come dire, resta per mesi a corto di cinema, poi fa fatica a ripartire, anche perché la crisi incombe e resta forte, la disaffezione del pubblico c'è perché poi ci sono sempre modelli televisivi, per esempio, che non abituano a questa frequentazione della sala come luogo di aggregazione. Siamo ripartiti poi con alcuni film di Venezia che non sono partiti con il piede sbagliato, erano opere che avevano bisogno di tempo, avevano bisogno di spazio, invece anche in quel caso sono uscite paradossalmente in modo un po' affollato, dico, ma come? In estate, in maggio niente, poi tutti i film in settembre. Poi noi ci siamo ritrovati qui a Mantova, tantissime anteprime, tutti i distributori, e ci siamo rianimati pur rimanendo certi problemi che ci siamo promessi con produttori e distributori che faremo di tutto per risolvere, perché noi ieri abbiamo visto insieme a tutti, veramente posso dire, ci hanno portato veramente delle bellissime opere, però ieri abbiamo visto il film di Virzì che oggi esce nelle sale, e stamattina abbiamo visto l'anteprima del nuovo film di Soldini. Vi garantisco, sono opere che, dovete dirlo a tutti, rappresentano l'orgoglio del cinema italiano. Noi abbiamo detto che dobbiamo essere i primi esercenti, ma anche come cittadini, a dire che il nostro cinema c'è. A volte è un po' più difficile, a volte ha bisogno di tempo per essere compreso. Quindi quella depressione che forse c'era prima, stamani si è trasformata in una sorta di ottimismo, perché c'è motivo per riprendere con coraggio, con passione, quell'idea di avvicinare il pubblico, di dirgli che uscire di casa e andare in una sala nel centro, anche in una monosala, è un momento di aggregazione. Ditelo forte, se muoiono i cinema, muoiono dei pezzi di città, i cinema non sono solo per vedere un film, ma sono l'occasione per uscire da una standardizzazione del modo di vita che ci porta a stare chiusi nelle nostre case, rincontriamo degli amici, ci vediamo prima e dopo, cioè, e poi ci sentiamo liberi di non essere, non schiavi di qualcosa che ci dice di fare sempre la stessa cosa, ma di decidere noi come passare i momenti liberi della nostra vita. Questo è il senso che vogliamo portar via da questa bella esperienza di Mantova, appunto, e riprendere, perché, come dire, come si sente, spero, anche dal mio tono, l'esercizio del sé è sempre quello che vuole stare avanti, che non si vuole mai disperare, anche se per dimensioni, tu hai citato il digitale, quello che poi nei processi rimane sempre un po' sacrificato. Il digitale deve essere una grande opportunità, come sempre accade, questa opportunità viene data sempre ai gruppi più forti e poi si lasciano indietro le piccole situazioni. Allora, allora, 4 giorni a Mantova, oggi è l'ultima giornata. Ecco, volevo chiederti se materialmente sono uscite anche delle indicazioni per il futuro. Operare. Sì, operative per il futuro, proprio. Sì, per il futuro sono quelle: maggior coesione nel rapporto tra la produzione e distribuzione e noi dell'esercizio, ritenendo veramente di poterci scambiare intorno a un tavolo i ruoli, anche per dire se veramente vogliamo stare insieme e superare questo momento, lo dobbiamo fare superando ogni individualismo. Cioè non c'è niente da fare, non è più tempo per mantenere i propri ruoli e farci promesse e poi non far niente. Ci dobbiamo presentare compatti davanti alle istituzioni, al Ministero, alle regioni, perché nel momento in cui si uscisse un po' dalla crisi si possono ricalettare alcuni interventi specifici, meritocratici, per sostenere l'industria culturale come investimento e non come spesa, anche perché di questi tempi sarebbe un problema già nominarlo. E in più dobbiamo essere i primi a far sentire al nostro pubblico che crediamo in questo cinema e trovare forme immediate di promozione con il pubblico. Stiamo parlando di una festa del cinema che faremo entro giugno. Abbiamo cambiato il modo di uscire i film, come sapete i film escono di giovedì per allungare il weekend. Dobbiamo costituire degli eventi, su questo giovedì dovremo organizzare dei club, delle prime, dovremo riuscire a fare il primo giorno a livello promozionale per far vedere al più alto numero di persone possibile il film mentre comincia la sua strada. Quindi cose concrete anche piccole per prepararci, speriamo quando ci sarà un po' di ripresa per tutti, a non dimenticarci che il cinema è una grande risorsa per questo paese, sia quando intrattiene, quando diverte, ma anche quando fa intelligentemente pensare. Ecco Mario, per maggiori dettagli possiamo lasciare qualche indicazione internet? Dunque, nei prossimi giorni sul nostro sito www.fice.it troverete probabilmente i risultati e anche sul sito Agis Web troverete un po' le nostre notizie, degli intendimenti, dei propositi che escono come sempre da questi importanti e centrali momenti di riflessione. Bene, allora ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao Mario. Mario Lorini, presidente della FICE, per un bilancio degli incontri del Cinema d'Essai a Mantova dall'8 all'11 ottobre. E con questa concludiamo la puntata di Visionari di quest'oggi. Vi ricordo i nostri contatti per inviarci posta elettronica visionari@ondarossa.info, per gli sms il numero è 342 357 4357, il sito internet della radio dove trovate la scaletta è www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e siamo anche su Facebook come Visionari. Vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Buon proseguimento.